Domani tu mi lascerai e più non tornerai. Domani tutti i sogni miei li porterai con te. La fiamma del tuo amore che sol per me sogna invano è luce di candela che già si spegne piano piano. Domani tu mi lascerai e più non tornerai. Al tempo passato, ai momenti inutilmente belli, sai, è molto difficile rassegnarsi a perderti.